La situazione è abbastanza critica, nel senso che sembra certe volte di vivere in un mondo un po' irreale, perché durante l'arco della giornata i ragazzi arrivano nel centro, giocano, imparano delle cose, vanno a scuola, sono nei laboratori e ogni tanto si sente qualche scoppio di fucile, di Kalashnikov, la sera qualche tracciante, insomma. Però proprio dai ragazzi che ho potuto vedere, con i quali ho potuto parlare, con i quali ho vissuto praticamente 8 giorni, ho visto un po' qual è l'anima un po' di questo paese, un paese senza dubbio che è lacerato da 10 anni di guerra civile, dove molti ragazzi, ma di tutte le età, diciamo dai 6-7 anni fino ai 18-19, possono aver perso entrambi i genitori, quindi senza speranza, teoricamente. Purtroppo sanno il peggio di questa guerra, nel senso che avendo visto l'uccisione dei propri genitori con i propri occhi, hanno visto cosa vuol dire. Spesso questi ragazzi sono anche ex guerriglieri, bambini che vengono anche presi una volta che hanno i genitori uccisi e portati nelle truppe, nei vari gruppi ribelli. Negli ultimi mesi questi gruppi ribelli mano a mano hanno firmato accordi di pace col governo centrale, tanto è vero che parecchie agenzie, specie quelle specializzate, riportavano il numero dei ministri in aumento ogni volta, perché c'era il gruppo che aderiva alla pace, quindi voleva magari un proprio rappresentante all'interno della coalizione di governo. Però diciamo sono loro quelli che poi alla fine pagano probabilmente il prezzo più alto. Cioè il Burundi, come tutti gli altri paesi africani, soprattutto quelli del Centro Africa, nella zona diciamo, dei Grandi Laghi, sta vivendo questa grossa lacerazione etnica tra Tutsi e Uto. Il luogo dove noi lavoriamo, dove io sono stato a contatto con questi ragazzi salesiani, sembra quasi una speranza per il futuro, perché ci sono sia Tutsi che Uto, quindi le due etnie contrapposte da tanti anni, sembra che lì possano teoricamente convivere. Sappiamo che non è così facile come lo sto dicendo io, perché le realtà chiaramente esterne sono ben diverse, però vederli l'uno a fianco all'altro, giocare, divertirsi, non è da poco, insomma. È probabilmente una via per insegnare la pace, la serenità, il lavoro, è proprio il lavoro, cioè dare l'opportunità di imparare una professione, educarli a potersi gestire la propria vita in base alle proprie capacità, cioè dare un'opportunità a questi ragazzi di avere una speranza. Se loro riescono a capire questo, se riescono soprattutto a metterlo in pratica, e se la situazione intorno a loro glielo consente, l'Africa potrebbe veramente essere un paradiso e non è un luogo comune quello che sto dicendo, perché quando la natura che vedo l'intorno produce quello che produce e purtroppo la gente che ci vive in mezzo non riesce a beneficiarne pienamente per tante ragioni economiche, politiche, finanziarie, eccetera, sembra quasi gridare vendetta.